24 mattino. Eccoci alle 8 e 17 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori con 24 mattino e con l'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua. Alessandro, buongiorno. Sei andato al concerto? Ti sento un po' giù di voce stamattina. Che è successo? So. Questa volta ho saltato. Ne ho visti in passato. Il mi piacciono. Degli U2 di Milano ieri sera, che ha paralizzato peraltro mezza città. Ma questo non interessa a tutto il resto d'Italia, ovviamente. Allora, sì. Oggi parliamo del bonus gas in arrivo dopo l'estate. Dopo l'estate e tra l'altro dopo il bonus sull'energia elettrica, che ricordiamo è partito a gennaio per le famiglie più bisognose. La domanda per poter ottenere questa agevolazione era possibile farla fino al 30 giugno, adesso invece nei prossimi mesi si apre anche questa nuova opportunità, sempre per le famiglie che si trovano in condizioni economiche disagiate, che hanno l'opportunità adesso di ottenere questo bonus. Il bonus gas in cosa consiste? Come si fa a farne richiesta? Questa mattina ne parliamo e ce lo spiega il dottor Egidio Fedele Dell'Oste, direttore tariffe dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Dottor Dell'Oste, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi. Allora, un provvedimento, chiamiamolo così, un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico messa a punto dall'Autorità per l'Energia, che riguarderà almeno 3 milioni di famiglie, dottor Dell'Oste. Sì, speriamo 3 milioni. Diciamo questi che il bacino potenziale è questo, certo. Sì, esatto. 3 milioni di famiglie e però per poterne usufruire naturalmente devono trovarsi in determinate condizioni economiche. Ci ricorda quali sono i parametri? Sì, sono le medesime del bonus elettrico. Se sono i nuclei familiari con un valore ISEE, cioè un indicatore di situazione economica equivalente, fino a 7.500, oppure per le famiglie con 4 o più figli a carico fino a 20.000. Naturalmente ci saranno anche altre variabili da considerare, come per esempio le esigenze di riscaldamento di questi nuclei familiari, il tipo di utilizzo, ma anche, ho letto, dottor Dell'Oste, la zona di residenza. Ci sarà una differenziazione del bonus a seconda della zona ovviamente in cui si abita, perché il clima è differente nel nostro paese. Sì, difatti l'articolazione è, non dico complicatissima, però è abbastanza articolata sia per zona climatica, cioè per esigenze di riscaldamento, sia per tipo d'uso, se uno usa il metano solo per cucina, acqua calda, oppure lo usa solo per riscaldamento, per entrambi, ed è articolato anche per i nuclei familiari fino a 4 componenti e sopra i 4 componenti. Però è stato possibile stimare una media di risparmio a seconda della composizione, certo, del nucleo familiare. Quanto potranno risparmiare le famiglie che faranno richiesta? Ma diciamo, essendo, le do due numeri, giusto, sì, per avere un'indicazione. Esempi. Diciamo, una famiglia che utilizza il gas metano per uso cucina, acqua calda e riscaldamento in una zona come Milano, zona E, avrà diritto fino a 125 euro l'anno. La stessa famiglia, se ha sede a Roma, zona D, 100 euro l'anno. Ecco, ricordiamo poi che ovviamente tutto questo potrà essere sommato anche all'altro incentivo di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, il bonus elettricità. Avete già individuato quante famiglie ne hanno fatto richiesta, dottor Dell'Oste, dell'altro bonus? Sì. Attualmente siamo a 1.100.000, qualche migliaio in meno, siamo intorno a 1.100.000. Posso però correggerla, se certo, mi permette, una sua indicazione. Mi dica, precedente. Mi dica, ci mancherebbe. Non è che la domanda per il bonus elettrico è scaduta il 30 giugno, sia per il bonus gas sia per il bonus elettrico, si può fare domanda in qualsiasi momento e da qui in avanti. Quella del 30 giugno era solo l'indicazione per aver diritto al bonus retroattivo per il 2008. Ragione. E me lo ricordavo anche perché mi ero già occupata anche di questo argomento, però insomma questa mattina mi sfuggiva. Peraltro medesima indicazione anche per il nuovo bonus, perché per far domanda si potrà partire, credo, forse da novembre, anche se sì, poi credo che la modulistica sarà disponibile già da prima. Sì, la modulistica abbiamo previsto di renderla disponibile entro la fine di settembre. Il sistema che è in grado di accogliere queste domande dovrebbe essere pronto dal 1° di novembre. Un sistema che tra l'altro vede la diretta collaborazione dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni d'Italia, naturalmente, perché per far domanda lì dobbiamo andare, dottore Dell'Oste. Sì, nei comuni, così come per l'elettrico i comuni sono quelli che ricevono le domande, oppure gli uffici che, con i quali i comuni hanno stretto degli accordi, tipo i CAF. Quindi per il bonus gas cominciamo a presentare la domanda a partire da novembre. Fino a quando avremo tempo? Dunque, come le dicevo prima, per presentare la domanda si può presentare ogni giorno. Fino alla fine di aprile, le domande presentate fino alla fine di aprile hanno diritto alla retroattività a partire dal 1° gennaio 2009. Quindi addirittura per le domande presentate entro il 30 aprile 2010 il bonus gas avrà un valore retroattivo al 1° gennaio di quest'anno. Esatto. Proprio, insomma, è una bella, anche questa è una bella... sicuramente notizia. Avevo letto così qualche indicazione delle associazioni dei consumatori rispetto a questa iniziativa, tutte mi sono sembrate curiosamente, stranamente soddisfatte. Un'associazione ha detto però che il costo di questa iniziativa non è esattamente, come dire, a carico pubblico, a carico dello Stato, è a carico della fiscalità generale, viene ripartito fra tutti i consumatori elettrici e gas. Come funziona questo meccanismo di solidarietà? Ecco, diciamo, non è, magari fosse a carico della fiscalità generale. Non è a carico della fiscalità generale. Esatto, come per l'elettrico è previsto che tutti gli altri utenti non domestici contribuiscano con una componente tarifaria, peraltro molto ridotta, contribuiscano a creare un fondo che poi serve ad alimentare questo sconto, questo aiuto per le famiglie bisognose. Allora, è lo stesso concetto dell'elettrico. È il concetto dell'elettrico, quindi dell'altro bonus. Adesso volevo anche dare indicazione, dottor Dell'Oste, del numero verde dell'autorità al quale è possibile rivolgersi per ottenere altre informazioni. Ho letto anche un'altra cosa, sempre dalla vostra comunicazione relativamente all'erogazione di questo bonus, che sarà riconosciuto come una componente in deduzione delle bollette, ma per tutti i clienti che per esempio usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento, la modalità con cui il bonus verrà erogato sarà diversa. Sì, quelli che non hanno un contratto di fornitura di gas metano, ricordo che stiamo parlando sempre di utilizzo di gas metano, quelli che non hanno un contratto di fornitura perché usufruiscono di un riscaldamento centralizzato avranno diritto a un bonifico che sarà intestato a chi farà la domanda. Molto spesso nelle nostre trasmissioni, dottore Dell'Oste, abbiamo parlato delle opportunità che si sono aperte per i consumatori italiani dalla liberalizzazione del mercato dell'energia, quindi molti ascoltatori, molti consumatori avranno cambiato operatore in questo periodo, magari qualcuno si accinge a farlo. Qualora scoprissimo di essere nel diritto di ottenere questo bonus, ma poi decidessimo di cambiare operatore, no, è assolutamente portabile, nel senso che indipendentemente dal fatto che uno cambi fornitore o anche che cambi residenza, il bonus viene trasferito da un venditore all'altro automaticamente. Mm-hmm. Allora, io credo di aver detto tutto, ci siamo dimenticati di spiegare qualcosa ai nostri ascoltatori, dottor Dell'Oste, relativamente a questo bonus? Quindi che l'essenziale è stato detto. Quindi aspettiamo, diciamo, adesso che passi l'estate. Sì. Sì, ovviamente può essere sommato con quello elettrico, ma abbiamo detto anche questo. No, ecco, l'importante è capire un po' i termini pratici della questione. Aspettiamo settembre che la modulistica sia pronta. Per tutte le informazioni possiamo andare a fare un giro sul sito dell'Autorità dell'Energia, ma anche sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, sul sito dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni d'Italia. Ricordiamo a questo punto il vostro numero verde, dottor Dell'Oste, che è l'800 166 654, e ci sono appunto c'è la possibilità ovviamente di interagire con questo consulter tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Dottor Dell'Oste, grazie molte per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Il direttore delle tariffe delle autorità per l'energia elettrica e per il gas, ricordando che peraltro martedì prossimo c'è la relazione annuale del presidente Alessandro Ortis. E dunque, tra poco, il post ABI, dopo l'assemblea delle banche italiane, cosa è successo? Oggi ritorneremo un po' sulla l'altra strigliata che ha dato alle banche italiane il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Draghi, giusto. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: il primo giorno del G8 ieri all'Aquila e con le prime intese tra i grandi, in particolare sul clima, per la riduzione delle emissioni di gas serra, ma vanno coinvolte Cina e India. Accordo anche nel condannare le violenze del dopo voto in Iran. Ci sono state proteste al summit, ma nessun incidente. Il ministro dell'economia Tremonti chiede alle banche una moratoria sui debiti delle imprese in cambio di un fisco più leggero, la proposta ieri alla riunione dell'associazione bancaria. E alle banche arriva anche il monito del governatore di Banca Italia Draghi: e sostengano il sistema industriale. In Iraq ci sono almeno 34 morti e oltre 60 feriti a causa di un doppio attentato suicida avvenuto nella cittadina di Tal Afar, a 400 km a nord-est di Baghdad. Infine, lo sciopero dei benzinai continuerà fino a stasera. È saltata infatti la trattativa al Ministero dello Sviluppo Economico tra gestori e compagnie petrolifere per sospendere la serrata. Tutto questo alle 8:33 minuti. E allora il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Torniamo a parlare di un cavallo di battaglia, di quella che era diventata la lotta contro la casta, si può dire così. I vitalizi dei parlamentari. In particolare di che cosa? Beh, qualcuno deve aver pensato che provarci è lecito, nel senso magari a uno non spetta una cosa, ma provare a chiedere si può sempre fare. Deve averla pensata così qualche ex parlamentare che sostanzialmente ha tentato che cosa? Di ottenere il vitalizio anche se non ne aveva diritto. Allora bisogna fare un passo indietro alla scorsa legislatura che, come ricordate, è finita in anticipo e soprattutto è finita prima della metà dei fatidici 2 anni, 6 mesi, 1 giorno, per cui prima si poteva ottenere, riscattando gli anni che rimanevano, il vitalizio. Che cosa è successo? Che nella scorsa legislatura, finita in anticipo, molti onorevoli e molti senatori non avevano dunque ottenuto almeno metà di legislatura, erano al primo mandato e dunque per la prima volta nella storia non avevano diritto al vitalizio. Erano 57 senatori e 120 deputati. Qualcuno però ci ha provato, pare, a chiederlo comunque questo vitalizio. Io voglio salutare l'onorevole Maurizio Paniz, buongiorno. Buongiorno. Lei è del Popolo della Libertà e tra l'altro è presidente del Consiglio di Giurisdizione della Camera, cioè un organo che ha il compito anche di decidere varie controversie relative agli atti di amministrazione della Camera, tra cui questo. Ma è vero che qualche ex parlamentare al primo mandato, che non ha raggiunto i 2 anni e 6 mesi e 1 giorno della scorsa legislatura, ha detto: per favore fatemi una deroga, datemelo anche a me il vitalizio? È vero che una quindicina di parlamentari della scorsa legislatura, terminata in anticipo, hanno proposto ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati, che ho l'onore di presiedere, Consiglio di Giurisdizione al quale hanno chiesto di valutare se era legittimo o meno che non fossero loro concessi una serie di, diciamo, benefit che competono ai parlamentari che rimangano in carica per una legislatura intera. Devo dire però che si trattava di ricorsi molto articolati, molto complessi e che si fondano su principi costituzionali abbastanza importanti, come il principio di uguaglianza rispetto ad altre categorie e così via. Il Consiglio di Giurisdizione ha respinto tutte queste richieste, però il tema è stato fortemente dibattuto, come normale, come comprensibile quando ci sono argomentazioni tecnico-legali, tecnico-giuridiche molto approfondite. Per carità, poi insomma lei fa anche l'avvocato, sì. Insomma, però l'idea che qualcuno ci abbia provato la metto giù un po' dura, no? Hanno provato a chiedere una deroga, dai. Non posso avallare proprio in pieno questa prospettazione. Devo dire che c'erano argomentazioni giuridiche molto significative per sostenere anche la tesi che è stata proposta. Il Consiglio di Giurisdizione le ha vagliate con molta attenzione e ha ritenuto poi di respingere tutte le domande. Quindi dobbiamo dire che la risposta alla fine è in linea con un'impostazione che mi pare dai prospetti, sì, per la quale sarebbe stato altrimenti un privilegio ingiustificato ottenere questo riconoscimento. Quindi ci sono, ovviamente lei, onorevole Paniz, i nomi non ce li dice, eh? mi pare che sia doveroso mantenere la privacy da questo punto di vista. Però la privacy, ci dica qualcosa, bipartisan, ecco. Sì, l'iniziativa è di partiti di varie estrazioni, di varie impostazioni, con idee anche dal punto di vista del rapporto cittadino-parlamentare, parlamentare-istituzioni molto diversificate. Mm. C'è anche qualcuno magari che aveva tuonato, se fatto vedere perché aveva tuonato contro la casta, i privilegi e poi ha fatto la domanda. Questo è abbastanza fisiologico, perché quando si tratta poi di rivendicare delle ragioni di tipo personale, evidentemente quello che magari si è detto sul piano generale può sembrare meno efficace. Vabbè, diciamo che comunque avete respinto al mittente questa articolata proposta. Sì, tra l'altro sono state tutte respinte. Tra l'altro so c'è stata anche la riforma, ci sono state delle proteste. Adesso il vitalizio per ottenerlo non basteranno neanche due anni, 6 mesi e 2 giorni. Bisognerà fare 5 anni di mandato tutto completo per ottenere il vitalizio. Non così era in passato. Io tra l'altro voglio salutare un collega, Andrea Ducci del Mondo, Andrea, buongiorno. Buongiorno. Settimanale economico Il Mondo, che lo scorso numero in copertina è uscito con la baby casta, perché l'elenco di tutte le persone che ma manco con una legislatura, ma con uno spezzone di legislatura, qualcuno con pochi mesi alle spalle, ha un vitalizio da quant'è il vitalizio? 3.108 euro lordi, credo, al mese, eh? Questo esattamente, oltre 3.000 euro. Ci sono dei bei nomi, no? Anche nomi, cioè ce ne sono tantissimi, compratevi Il Mondo e ve li vedete tutti, ma alcuni anche famosi, non so, c'è Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, Rossana Rossanda, la fondatrice del Manifesto, Gino Paoli, Fulco Pratesi del WWF, vabbè, Tony Negri fu un caso incredibile. Quanto ci costa la baby cast, Andrea? Allora, questo elenco di parlamentari, che sono oltre 750, ovvero quelli che hanno ricoperto o il mandato per un'intera legislatura, quindi 5 anni o addirittura meno, quindi una parte di legislatura, costano complessivamente quasi 30 milioni di euro all'anno. 30 milioni di euro all'anno. Ma com'è possibile che anche chi ha ricoperto magari per soli 2 mesi, 3 mesi, un paio d'anni, un anno, ora ha questo vitalizio? Ma sono privilegi accumulati e stratificati nel corso del tempo e sostanzialmente che rispondono ai vecchi regolamenti di presidenza di Camera e Senato, che appunto consentivano la contribuzione volontaria, quindi di riscattare la parte di legislatura non effettuata e maturare la famosa soglia 5, cioè aver diritto alla pensione con 5 anni contributi versati. E nel corso delle varie legislature che si sono susseguite, alla fine abbiamo il risultato che oltre 750 persone di fatto portano a casa oltre 3.000 euro lordi al mese, avendo ricoperto un'attività in alcuni casi veramente per meno di 2 anni. Soprattutto Ci sono anche vari altri nomi. Augusto Fantozzi, per esempio, ora il commissario l'attuale commissario dell'Italia, esatto. L'ex ministro, è uno dei pensionati della Camera con 2 anni e mezzo di legislatura. Tutto reversibile, tra l'altro, cioè nel senso si può fare la reversibilità con un coniuge, per esempio, non solo con un coniuge. È uno, gli eredi hanno diritto, anche eredi. Laddove hanno i diritti, cioè la reversibilità di questo vitalizio è anche cumulabile, non solo reversibile. Quindi sì, certo, cumulabile con un'altra pensione, con altre redditi. Senta, onorevole Panizza, abbiamo detto che tutto questo ora non è più possibile, nel senso c'è stata la casta, lo sappiamo, la casta intesa come libro, ci sono state le riforme delle pensioni, ma davvero lei insomma in punta di diritto ci ha detto che erano anche domande tutte articolate con facenti anche riferimento a diritti costituzionali, ma davvero un pizzico, non so, di stupore anche quando sono arrivato queste 15 domande non l'avete provato. In fondo erano più di 15 quelli che potevano fare questa domanda, mentre solo 15 l'hanno fatta. Cominciamo col vuol dire che questa serie di benefit e di privilegi, diciamolo con franchezza, vecchi che portano 750 persone circa a godere oggi di questi trattamenti, sono modificati notevolmente, e questo è avvenuto ben prima che venisse pubblicato il libro della casta, perché alcuni regolamenti sono stati modificati negli anni tra il 95 e il 2000, altri all'inizio degli anni 2000, quindi oggi la situazione è molto molto diversa. Diciamo anche che questi 15 ricorsi costituivano una sorta di ricorsi pilota, e che altri avrebbero potuto avviare la iniziativa se ci fosse stata una pronuncia di tipo positivo. Questo è molto probabile. Cioè, del tipo hanno mandato avanti quei 15 per poi sperare di aprire con un grimaldello, ci fosse stato un parere positivo, no? Sì, però non posso dire, lo ripeto ancora, che si trattasse di domande del tutto infondate. Noi dobbiamo tener conto anche di quello che succede nella realtà pratica. Pensiamo, che ne so, un professionista che improvvisamente chiude uno studio per fare alcuni anni di attività parlamentare, quindi perdendo totalmente l'avviamento che si è costruito. Non dobbiamo pensare sempre a persone che abbiano un posto garantito, un posto assicurato, che possono riprendere una volta cessato il mandato parlamentare un'attività che prima avevano con le stesse caratteristiche. Ci sono anche persone che improvvisamente, per gestire il mandato parlamentare, che sicuramente è un mandato molto importante, molto significativo, che dà anche dei compensi adeguati, questo non lo si discute, però l'improvviso interrompere un'attività professionale e doverla riprendere dopo anni non è sempre facilissimo, o comunque non è facilissimo per tutti. Quindi le iniziative non erano proprio così palesemente destituite di fondamento e palesemente prive di alcuna argomentazione di contenuto giuridico. Ma voglio dire, però le chiedo, onorevole, perché insiste su questo punto? Nel senso, la legge all'interno della Camera è chiara, voglio dire, dice se non si raggiungono i 2 anni, 6 mesi, 1 giorno e se è al primo mandato non si può cumulare per arrivare a quei 5 anni fatidici che danno. Questo è quello che il Consiglio di giurisdizione ha ritenuto che la normativa fosse chiara in questo senso. Cioè, che altro tipo di eccezione si può fare a una norma? Ma guardi, le posso dire che per esempio alcuni dei costituzionalisti che hanno sostenuto la tesi avversa si sono richiamati al principio di uguaglianza, dicendo in Italia esiste un principio costituzionale per il quale ogni cittadino ha diritto di cumulare una parte del proprio stipendio per goderne poi come indennità d'anzianità. Questa è una possibilità che è preclusa soltanto ai parlamentari. Qualsiasi tipo di professione invece ha un trattamento differito in sede di anzianità. Al parlamentare questo non è consentito nel caso specifico se non ha una durata di legislatura almeno adeguata secondo certi parametri. Capisce che questo non è un principio privo di un minimo di fondamento, perché l'attività del parlamentare è un'attività comunque prevista dal nostro ordinamento, come lo è quella del dipendente quella dell'operaio o dell'impiegato. Io, nel ringraziarvi, insomma, non so se è stata sofferta una decisione combattuta, ma grazie per aver deciso di respingere le domande prima che poi qualcun altro pensasse di porla. Ringrazio l'onorevole Maurizio Paniz, Popolo della Libertà, così come Andrea Ducci, corrispondente a Roma del settimanale Il Mondo, che ha pubblicato la Baby Casta, l'elenco di tutti quelli che ottengono, anche con solo pochi mesi, un vitalizio da parlamentari da 3.100 euro al mese. Molti lo daranno in beneficenza, per carità. Sono le 8:48 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Torniamo a parlare del pacchetto sicurezza, quello che tra l'altro ha introdotto, tra le altre cose, il reato di clandestinità. Non solo quello, ma quello che fa più discutere. Leggo da Il Corriere del Mezzogiorno: il cuore di questo atto è il mercato dello sfruttamento di chi è povero. Per combattere questa legge si dovrà attuare la disobbedienza civile. Parole che scrive il Corriere del Mezzogiorno, insomma, non sono state pronunciate da, che ne so, da un no global, ma da Nicola Quatrano, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Nicola Quatrano è un giudice, lei è al Tribunale del Riesame di Napoli. Insomma, Quatrano, sono queste le parole che ha detto lei: disobbedienza civile al pacchetto sicurezza. La questione veramente è troppo grave e drammatica perché si possa risolvere con delle semplificazioni. Io in realtà non ho invitato nessuno alla disobbedienza civile, ho offerto un ragionamento, diciamo, su questa vicenda che, se vuole, dico, ma certo, che mi deve dare il tempo di fare, perché abbiamo 5-6 minuti. No, dico questo. Vede, io conosco discretamente la realtà di certe regioni africane, Sahel per esempio, perché faccio l'osservatorio internazionale, e in queste regioni esiste la schiavitù. Ora, il carattere in particolare della schiavitù, quello che veramente la caratterizza, non è nelle catene, nei maltrattamenti, ma è l'assenza di diritti. Uno schiavo della Mauritania non può acquistare un bene, non può sposarsi senza l'autorizzazione del padrone, sì. Lavora senza diritto alla mercede. Le norme sulla clandestinità, le norme del pacchetto sicurezza tendono, diciamo, in maniera più o meno chiara, a favorire l'espulsione e a rendere, come dire, la vita impossibile ai clandestini perché se ne ritornino a casa. Sì. Posto che mi pare un obiettivo realizzabile, perché gente che per la maggior parte ha rischiato la vita nel deserto libico, in mare, in carrette del mare, non se ne torna a casa, il risultato vero è di costringere una fetta consistente della popolazione che vive nel nostro territorio a una condizione che assomiglia pericolosamente a quella della schiavitù. Quindi a creare una situazione di schiavitù, le dice. Però capisce che insomma è un giudizio, come dire, da un magistrato, mi aspetterei una terzietà, un'imparzialità, insomma, può essere d'accordo o no nei confronti di una legge, ma insomma mi hanno insegnato che il magistrato la applica una legge. Io le sto dicendo appunto che qui stiamo parlando non di una legge ingiusta, non di una legge non condivisa. Se davvero, e io non l'ho affermato, ma l'ho offerto, come dire, alla riflessione collettiva nel corso di un'assemblea in cui sono dette anche, si è detto anche di peggio, si è paragonato alla legge razziale questo pacchetto di legge, dico, se noi davvero pensiamo che queste norme costringono una fetta di popolazione alla schiavitù, lei cosa fa? Sa che a Norimberga quelli che hanno cercato di giustificarsi dicendo obbedito a degli ordini si sono sentiti rispondere no, a certi ordini non si obbedisce. Vabbè, anche lei insomma fa un paragone, anche lei ha detto le leggi razziali, ma anche lei fa un paragone bello azzardato insomma su questa legge. Ho proposto una riflessione su questo tema perché colgo questa somiglianza. Il clandestino in Italia lavora senza aver diritto alla mercede, perché se il padrone non lo paga lui non può fare nulla per ottenere quello che gli spetta. Non può, non dico acquistare una casa, ma non può affittare una casa. Non può fare un contratto dell'elettricità, non può acquistare una scheda telefonica, non può andare in ospedale, non può fare... Quella l'hanno tolta, quella del dei medici spia, no? Ma no, perché ogni pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni viene a conoscenza di un reato dovrebbe. Rapporto. Quindi insomma siamo in una condizione che è di assenza di diritti. Capito, però voglio dire, su questo punto, il fatto che lei faccia al magistrato, cioè secondo me non può bypassarlo a dire vabbè, ma io faccio anche, sono una persona che ho le mie idee, come tutti, però insomma capisce che il suo ruolo... Io sono il magistrato, come dire, non mi obbliga a mettere, diciamo, a riposo il cervello. Io ho partecipato alla discussione e ho offerto, come dire, un terreno di riflessione che se dovesse, io non ho ricette, io sto dicendo, siamo su una in una situazione che assomiglia pericolosamente a quella. Se si dovesse, dopo un'analisi approfondita naturalmente, perché ripeto, qui si parla di una discussione che è stata fatta, insomma. Questo sì, detto questo... porterebbe a delle conseguenze piuttosto importanti, perché di fronte a leggi che in qualche modo mettessero sotto, una volta definito, diciamo, no? Mettessero sotto i piedi non solo la legalità costituzionale, i principi condivisi del diritto internazionale, i principi di umanità, eccetera, si pone un problema alla coscienza di ciascuno. Io che faccio? No, ma questo sì. Senta, Quatrano, lei tra l'altro, voglio dire, no, non è la prima volta che dice io il cervello non lo metto a riposo, le mie idee le esprimo, no? Sui giornali lei in passato già è andato, quando credo andò anche nel 2001 a una manifestazione di No Global dicendo c'erano i miei figli e quindi ho accompagnato i miei figli, o era anche a Chiaiano quando c'erano le manifestazioni? No, Chiaiano no, veramente, no. Ero solo di passaggio, ma insomma nel 2001 sì, senz'altro. Era di passaggio in che senso? Cioè era lì per... No, ero andato lì a vedere. A vedere. Vabbè, ma comunque non è importante. No, no, no, voglio dire, però non è, per dire, non è anche il Corriere del Mezzogiorno, sottolineare, non è la prima volta che lei finisce insomma sulle pagine dei giornali anche per dichiarazioni, insomma, che fanno discutere, ecco, la presenza sicuramente a un corteo di No Global di un magistrato, anche questo a far discutere, insomma, nel 2001. Voglio dire, mi pare che i fatti mi abbiano dato ragione, diciamo. In che senso? Vabbè, insomma, ripetiamo la storia di quello che è successo a Genova qui, insomma, no? Vabbè, quindi lei dice, io pur facendo il magistrato, e questo c'è una assoluta, come dire, imparzialità nell'applicare una legge, cioè voglio dire, se lei poi dovesse applicare questo, concretamente questa legge, come fa a esserne imparziale di fronte, dopo le opinioni che ha espresso? Il rischio maggiore, come dire, quando qualcuno indica la luna è che ci sia sempre qualcun altro che si fissa sul dito senza guardare la luna e perdendosi il meglio. Io le sto dicendo una cosa che non è chiara a me per primo, perché ripeto, la offro, oltretutto bisogna ancora vederlo bene, cioè. Sì. Ma se davvero, adesso le faccio io una domanda, se davvero ci fosse una legge in Italia che introduce la schiavitù, lei che fa? Beh, bisogna vedere se, no, è chiaro, è il passaggio. Lei dice che questa legge potrebbe introdurre la schiavitù. Ho detto, non lo so ancora, pensiamoci, riflettiamo. Va bene. Ma se in Italia venisse applicata una legge che introduce la schiavitù, lei che fa? Magistrato che fa? Questo è chiaro, ci dobbiamo lasciare con questa domanda che lei fa. Io la ringrazio, Nicola Quatrano, giudice del Tribunale dell'Esame a Napoli. Ci dobbiamo fermare, vedremo insomma quando questo pacchetto entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Laura Marchesi, Alessandro Marcotullo in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Do la linea, il microfono a Oscar Giannino. Ci troviamo domattina.